provate a mettere le ali. Provate a mettere le ali alle lumache, diventeranno draghi. Diventeranno draghi. Provate a dare i fucili. Provate a dare i fucili in mano alle cimici, diventeranno simili a carro armati volanti. Gli alieni sono sulla terra, gli alieni sono già atterrati. Chiedetelo agli insetti se li hanno visti camminare. Gli alieni sono nel mare, si sono già tuffati nel mare. Chiedetelo alle aragoste se li hanno visti nuotare. Rispetto alle formiche sono forte come Godzilla. Rispetto alle formiche sono alto come Godzilla. Rispetto alle formiche sono grande come Godzilla. Ci basterebbe la coda. Ci basterebbe la coda per creare nuovi posti di lavoro nel settore della moda. E le falene non le vedo male, io le falene non le vedo male. Sono solo farfalle anziane con la pelliccia che vanno a ballare la sera. Rispetto alle formiche sono forte come Godzilla. Rispetto alle formiche sono alto come Godzilla. Rispetto alle formiche sono grande come Godzilla. Le cimici si possono definire carro armati volanti. Vengo mandate in guerra al posto dei soldati. A loro questo fatto però non piace. M'han detto in un orecchio siamo per la pace. M'han detto in un orecchio siamo per la pace. Rispetto alle formiche sono alto come Godzilla. Rispetto alle formiche sono forte